9 in punto. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, una buona giornata da Simone Spezia. Allora, la puntata l'abbiamo intitolata simbolicamente Bye Bye Italia. Abbiamo ripreso spunto dalla telefonata che ci è arrivata ieri da un ascoltatore che è un imprenditore che ci ha raccontato come ha intenzione di spostare la sua sede in Svizzera, un consulente che ci raccontava come ormai riceve tra le tre e le cinque visite settimanali di imprese italiane che si vogliono spostare in Ticino. E non vogliamo fare una puntata per dirvi andatevene, è una puntata per mettere in piazza tutto questo, raccontare quanto vivere in questo paese sia difficile. È una questione che riguarda non solamente gli imprenditori, come si diceva, ma anche i lavoratori dipendenti. Mi scrive sulla pagina Facebook Antonio Radici, dice: non sono un imprenditore ma un semplice lavoratore, i motivi che mi hanno portato via dall'Italia sono stati un mercato del lavoro che premia l'anzianità invece che il merito, più per una questione di mentalità che di contratti, un livellamento verso il basso e la mediocrità in quasi tutti i settori in cui chi si impegna è paradossalmente penalizzato. E poi aggiungo io, oltre alla pressione fiscale, che non è l'unico elemento, il grado di incertezza normativa, l'enorme oppressiva burocrazia, anche fiscale, naturalmente, la giustizia lenta, un sistema contrattuale che raramente ha premiato la produttività, salvo qualche caso eccellente, abbiamo un federalismo che non funziona, ma soprattutto forse manca una visione di lungo periodo e abbiamo tutti una sensazione di immobilismo di questo paese che ci domina. E allora bisogna parlarne, perché su questo, almeno a mio modestissimo giudizio, bisogna fare pressione. 800240024 per intervenire in diretta, www.facebook.com/9in.radio24. Avanzavamo, per così dire, un'ascoltatrice, un'imprenditrice da Padova che tra poco sentiremo, però voglio iniziare con un altro imprenditore. Renato Cifarelli, buongiorno. Buongiorno. Voi dove siete? Noi siamo a Voghera. E che cosa fate? Facciamo macchine per agricoltura e giardinaggio. Agricoltura e giardinaggio ed esportate? Sì, 95%. 95% di esportazioni. Oh, che cosa le è successo a lei? Avevamo preannunciato un suo intervento ieri, già ieri in trasmissione, sì. Che non ci ha nemmeno pensato lei a dire andiamocene, e nemmeno ci sta pensando probabilmente per davvero, e però sono venuti i suoi dipendenti a dirglielo. Sì, a me è capitato già due o tre volte con due o tre persone che entrano nel mio ufficio. Io... La nostra è una piccola azienda, siamo una sessantina di persone, quindi faccio l'amministratore delegato, ma la mia porta è aperta, insomma, passano di qua più o meno tutti. E già un paio di volte, o tre, ci sono stati i miei dipendenti che a furia di trovarsi davanti alla burocrazia sono entrati nel mio ufficio e mi hanno detto: ma cosa ci facciamo ancora qua in Italia? Allora, ci porti un esempio pratico, perché così facciamo capire anche agli ascoltatori, anche a chi non è un imprenditore, a cosa devono sottostare gli imprenditori normalmente. Ma stamattina, tra l'altro, è una mattinata adatta, perché io avevo due persone, una alla Guardia di Finanza della mia amministrazione, una all'Agenzia delle Entrate, perché noi dobbiamo fare una distruzione di alcuni cespiti, perché abbiamo liberato un magazzino dove avevamo dentro della roba vecchia e quindi bisogna portare la lettera vergata a mano, firmata, all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, perché loro devono intervenire poi per controllare che noi davvero distruggiamo dei cespiti di 25 anni fa e non li vendiamo in nero. A mano? Beh sì, certo, bisogna andare in ufficio. Certo. Ovvio. Per fortuna ci sono ancora gli uffici. Diciamo a fa? Che cosa per fortuna ci sono ancora gli uffici a Voghera, perché alcune cose le hanno spostate a Pavia, quindi in alcuni casi, se c'è da andare in Camera di Commercio, c'è anche da perdere la mattinata. Tra l'altro, per le aziende che esportano, in particolare quelle che vanno a fare le fiere, c'è tutta una procedura delirante che si basa sul registro fisico. Come funziona questo? Sì, no, per quanto riguarda le fiere all'export, beh, noi per fortuna lavoriamo ormai in 70-80 paesi e quindi le facciamo molto spesso con i nostri distributori locali. Però ai tempi, quando abbiamo cominciato a fare le fiere, tantissimi anni fa, alla fine avevamo deciso di esportare le macchine e lasciarle, regalarle a qualcuno piuttosto che metterci a fare una cosa che si chiama carnet ATA e che è una cosa complicatissima, per cui in pratica è la dimostrazione che io ho esportato la roba e poi l'ho rimportata, però con delle procedure bizantine che la nostra roba non costa molto, costa qualche centinaio di euro. E quindi dice, meglio lasciarla là. Meglio lasciarla là che fare avanti e indietro con i documenti. No, poi un altro esempio, per esempio, è che tutti diciamo che il federalismo non esiste, invece esiste moltissimo in Italia il federalismo. Noi dobbiamo fare per ogni esportazione, tenga conto, facendo il 95% di export, noi le esportazioni sono il nostro pane quotidiano, per ogni esportazione bisogna fare una dichiarazione che il materiale che noi esportiamo non è materiale bellico, militare, per uso... per tutta una serie di... Poi magari un decespugliatore lo può usare anche per quello, però insomma diciamo è un altro, naturalmente sì, è un altro ragionamento. Aspetti, la fermo. Saluto Paolo Buzzetti, presidente dell'ANCER, Associazione Nazionale Costruttori Edili, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Ecco, in questo delirio si inserisce un emendamento folle di un deputato del Movimento 5 Stelle, Giacomo Pisano, che è riuscito a farlo passare in Commissione Bilancio e Affari Costituzionali nel testo del decreto fare, ed è quel testo, quello sul quale il governo ha messo la fiducia, che introduce il DURT, ne abbiamo già parlato ieri, ennesima sigla che vi farà impazzire. L'abbiamo già raccontato ieri, però le chiedo insomma di riassumerci questo strano oggetto. Lei ha usato i termini appropriati, ad esempio di delirio. Questo strano oggetto è un'aggiunta inaccettabile per le imprese come onere da sostenere. Già abbiamo un indebito compito che non toccherebbe alle imprese, che è quello di controllare, se uno ha un cantiere, chi li fornisce materiali o magari una ditta che fa un subappalto specialistico, bisogna controllare che i dipendenti di queste altre ditte siano stati pagati regolarmente, quindi le ritenute famose, e già questo è un compito indebito che costa alle imprese amministrativamente, a delle persone che devono controllare. Adesso che cosa ci andiamo a inventare? Dopo 5 anni di crisi si complica la vita, si vorrebbe complicare la vita con un provvedimento che dice questo: documento unico di regolarità tributaria, vale a dire bisogna farsi rilasciare dall'Agenzia delle Entrate un documento che è tutto a posto non solo per se stessi ma anche per appunto le ditte, i dipendenti, le altre ditte, che certifichi che non ci sono né una multa né magari un contenzioso dal punto di vista dei pagamenti fiscali, perché altrimenti il committente privato può decidere di non pagare. Nel momento in cui stiamo andando finalmente verso... Buzzetti, la fermo, perché questo è un punto importante, anche solo col contenzioso. Cioè, se tu hai un contenzioso e quindi non sai per definizione... Come hai ragione o no, esattamente. Questa è pura follia. Tra l'altro le lascio perdere il fatto che bisognerebbe creare una piattaforma elettronica in cui mandare i dati di tutte le aziende, lasciamo perdere. Ma questo crea ovviamente assolutamente il rischio di non essere pagati, pur avendo potenzialmente ragione in un contenzioso futuro, perché magari bisogna aver dimostrato che invece sta tutto a posto. Quindi è sbagliato nel concetto, è un onere improprio dal punto di vista delle aziende, è una follia, è un aumento di burocrazia senza senso. Mi pare che siano, Buzzetti, una ventina di obblighi in più avete con questo DURT, più o meno. Non c'è dubbio, ma noi in ogni procedura ci stanno 20 passaggi, 20 pezzi di carta e 20. Allora, nel momento in cui abbiamo 5 anni di crisi, siamo entrati nel sesto, si dice che la burocrazia soffoca l'attività imprenditoriale, ci inventiamo cose ininventabili e anche improprie nei i compiti delle imprese. Viene da pensare, ma io non sono dietrologo, che queste cose le si fanno apposta per creare tensione, non lo so, forse sono strategie per far cadere il governo. Io non so più che pensare, perché non si possono nemmeno concepire cose del genere. E che cosa farete, Buzzetti, che cosa farete? Adesso il provvedimento è passato, quindi con l'approvazione di tutti, è passato alla Camera. Io mi auguro veramente che al Senato venga ritirato, perché sennò, come abbiamo detto, andiamo in piazza e queste rischiano di essere le gocce che fanno traboccare il vaso. Nella storia accadono, cioè c'è quel fatto in più che alla fine, siccome è una somma di fatti insopportabili, scatena la reazione. In piazza a Roma, in piazza a Roma, Buzzetti? Ma certamente, perché non lo vogliamo accettare questo. Questa è veramente la cosa in più che non vogliamo accettare. Recuperiamo dunque, la nostra ascoltatrice ci ha chiamato ieri, Silvia Favaron, imprenditrice anche lei, buongiorno. Buongiorno, buongiorno da a Padova, tutti. Da Padova, che cosa fa la sua azienda? Noi siamo fortunati perché abbiamo una nicchia di mercato che ci permette ancora di respirare. Noi realizziamo spa su misura, portiamo l'est italiano e fortunatamente è un settore che ci sta premiando ancora, con tutte però le mille difficoltà del momento. Che cosa ci voleva dire ieri lei? Io sono del parere che l'impresa è sempre impegnata a fare impresa, ma che oggi non può prescindere dal fare anche politica. Gli imprenditori italiani, secondo me, oggi sono nella condizione di chiedere asilo politico ai paesi vicini. Perché perseguitati? Perché non si mettono le aziende e i lavoratori nella condizione di fare il loro lavoro, nella condizione di fare un progetto. Ce lo diciamo molto spesso, navighiamo a vista, ma non vediamo, non sappiamo dove stiamo andando, non sappiamo cosa sarà a settembre, come facciamo a fare delle pianificazioni? Come facciamo ad investire? Come facciamo a immaginarci domani? Non siamo nelle condizioni di farlo. È disarmante. E guardi che io sono di quelle che dice sempre, perché al telefono io poi sono una positiva, ma dico ai colleghi: rompiamo la catena del pianto, guardiamo avanti, tanto non ci aiuteranno, perché nella sostanza molti imprenditori nel 2009 dicevano: rimaniamo fermi, no? Succederà qualcosa. Non è successo assolutamente niente, non succederà niente. In Germania hanno messo i soldi sul tavolo. Qui il problema è cercare di trovare una strategia che ci porti fuori, ma la politica, e lo abbiamo visto e lo stiamo vedendo, non la sta esprimendo, non la sta capendo. I provvedimenti come questo, che inchiodano i cantieri ancora di più, non permettono alle aziende di lavorare serenamente, di tentare di trovare strategie per i mercati. Guardi, si obbliga... Guardi, è esattamente il motivo per il quale stiamo facendo queste trasmissioni. Insomma, sono tre giorni che ci occupiamo di tutto questo, proprio perché, insomma, la mia opinione è che da questo punto di vista serva dare un segnale, e speriamo che chi deve ascoltare le ascolti. Michele da Milano, buongiorno. Buongiorno Simone, io la ringrazio veramente per avermi chiamato, perché ho sentito la trasmissione di ieri, mi aveva già colpito ieri mattina. Io dicevo alla sua collega: io faccio il promotore finanziario, vedo tantissimi clienti tutti i giorni che si lamentano, che non vedono futuro perché il lavoro è calato tantissimo e le aziende continuano a chiudere. Io stesso mi alzo tutte le mattine alle 7, vado a dormire tutte le sere alle 11 per seguire le cose dei miei clienti, e alla fine tira le somme e dasci allo Stato per il 60% di quello che hai guadagnato per non avere nulla, e senti un ministro Letta che ti dice che l'evasione è la causa di tutti i mali. L'evasione è sicuramente la causa di tutti i mali, però non si può strangolare le imprese, strangolare la gente in questo modo, perché sennò vanno a cercare ovviamente un paese dove sono più trattati con minor rigore e possono veramente vedere un futuro, perché qui la gente non vede più futuro, e questo secondo me è il male di cui il governo non si rende conto, che la gente ha perso la speranza, secondo me. Questo secondo me è un tema importante, Michele, ed è esattamente lo snodo secondo me del tutto, cioè la dimensione psicologica che si sta innestando in questa coda lunghissima della crisi, con istituti internazionali e non solo che iniziano a dirci che siamo fuori dal tunnel, ma questa luce in fondo al tunnel, insomma, oggettivamente fatichiamo a vederla. Allora... Vorrei leggere qualche qualche messaggio che ci è arrivato su Facebook. Allora, Alberto Pasian, ho 37 anni, dice: mi occupo di graphic design per il web e produzioni video. Dice che le sue capacità sono diventate poco rilevanti per le aziende a causa anche della lenta involuzione dell'economia italiana. Dice: l'Italia mi sembra un gigantesco apparato bloccato dall'inazione, dove tutti, dai politici ai cittadini, e su questo devo dirle la verità, concordo, nel senso che ci siamo dentro anche noi, prima di fare un qualunque passo pensano sempre al proprio interesse privato. Mi è rimasta davvero poca fiducia, forse la coscienza del problema è più presente nella società civile adesso rispetto a 30 anni fa, ma ho l'impressione che comunque ci vorranno almeno altrettanti anni perché qualche cambiamento si insinui nel collettivo del paese. Di una cosa sono certo, 30 anni di attesa non li ho più, non li ha probabilmente nessuno di noi. Umberto Borrelli dice: sono stato 4 giorni a Monaco di Baviera, la voglia di scappare si è centuplicata, altrove la vita non solo è più facile ma c'è una gran voglia di vivere bene e una grande speranza nel futuro, e là torniamo, che in Italia è venuta meno, siamo un popolo depresso e mugugnone, altro che sole, mare e mandolino. Luigi da Milano, buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, prima frase, 20 anni fa disse: se noi siamo in un piccolo cieco e quindi arriveremo comunque per sistemare ogni cosa alla rivoluzione civile. Questo è un primo patto. Secondo, è inutile, in piena conferenza di piccoli industriali io mi alzai e dissi: signori, dalle nostre università escono gli asini. E questi alla fine hanno chiesto il perché e l'ho spiegato e mi hanno dato ragione. Lei quindi è un imprenditore, Luigi, lei quindi è un imprenditore? Sono uscito da imprenditore brevemente, sto aiutando il figlio che va avanti, ma con molta difficoltà. Che azienda è? È un'azienda che fa metalmeccanica. Come vanno le cose? Come vanno le cose, Luigi? Malissimo, perché queste non sono cose che si possono dire alla radio, ma vanno dette ai privati, perché qui la mafia ci sta mangiando. Allora, a monte di questo... E cioè, Luigi, spieghi però... Distruzione di mercato. Vale a dire, io compro una cosa a un euro, la vendo a 0,95. Allora lei mi deve spiegare come si può fare una cosa del genere. Questo è il punto che gliel'ho spiegato brevemente. Riciclaggio, dice lei, in sostanza, cioè bravo. aziende in crisi, la criminalità organizzata entra, le compra e poi fa i prezzi che dice lei, perché diciamo, esatto, la liquidità a quelli non manca, a differenza delle persone oneste. Certo, perché lo si vede dai bilanci, perché i bilanci, anche un profano vede queste cose, ma la cosa più importante è che ieri sera una signora ha detto che lei ha chiuso, perché chiaramente le banche gli hanno chiuso i rubinetti e tutto, ma la cosa decisamente più importante è che i nostri politici fanno finta di non sapere, ma lo sanno, che i nostri dipendenti pubblici sono esageratamente elevati. Noi abbiamo una tassazione che supera l'80%, quindi al piccolo, medio e il grande industriale si salva ancora, non so come facciano a sopravvivere, ecco perché la gente si ammazza. Ma la cosa più importante, ed è l'ultima e poi mi taccio, perché è giusto che parlino anche gli altri, ma la cosa più importante è che noi come dipendenti pubblici, calcolandoli bene, siamo 1.650.000 in più, pari a 65 miliardi del nostro bilancio. Con 65 miliardi del nostro bilancio potremmo essere i più ricchi del mondo. I nostri politici, destra, sinistra, centro, sopra, dentro, tu, fuori, ci stanno ammazzando. Grazie anche per la sua testimonianza e per il racconto. Adesso leggerò a Buzzetti è caduto, Alessandro Marco Tulli. Allora guarda, facciamo una cosa, perché c'è una cosa che io voglio leggere a Buzzetti, una proposta che mi è arrivata ieri via mail da un ascoltatore. Però insomma ci prendiamo una pausa, poi ci sentiamo altri ascoltatori, recuperiamo Buzzetti e vi leggo questa proposta perché secondo me non è niente male. 9 in punto. Giampaolo da Milano, buongiorno. Buongiorno. Eccolo qua. Dunque, lei fa l'imprenditore? Lei fa l'imprenditore, sì, anche lei? Noi esportiamo il 95% della nostra produzione oltremare, fuori d'Europa. Stiamo facendo dei lavori importanti in un cantiere molto grosso degli Emirati, abbiamo dei nostri personali che deve fare il montaggio e abbiamo 12.000 euro di strumenti che siamo per il montaggio, che per evitare tutte quelle pastiglie velenose della burocrazia italiana, abbiamo regalato, messo nel contratto addirittura perché potessero rimanere sul posto, sono attrezzature abbastanza costose, 12.000 euro, per evitare la burocrazia. Ma questo non è la sola cosa. Noi, siccome esportiamo oltre mare, negli stati criminali di Hong Kong, di Singapore, quelli sono gli stati criminali, abbiamo una visita fiscale di 30 giorni della finanza, o per l'IVA, o per questo, ogni anno. Non abbiamo mai evaso un euro, però abbiamo 30 giorni l'anno della gente qui che spuccia le nostre carte, fa le domande, ci interrompe e non capisce la corrispondenza in lingua straniera che siamo costretti a fare, traduce in qualche modo e poi ci applica delle multe assolutamente inesistenti. Io dico che la burocrazia, la mentalità burocratica italiana, che investe il 50% della popolazione purtroppo, fa più delitti e fa più morti di quanto non la faccia la criminalità organizzata. Secondo me la burocrazia italiana è molto peggio della mafia, della 'ndrangheta, della camorra, e dovrebbero essere veramente messi in condizioni di non nuocere, ma siccome i politici sono dei burocrati, questo non accadrà mai. Quindi questo paese ormai è finito. Questo è quello che volevo dire. Grazie Giampaolo, anche per il messaggio, anche se il messaggio non è proprio rassicurante. Ci scrive un Renzo da Milano via SMS: Svizzera tasse al 20%, Italia oltre il 55%, anche il più ignorante saprebbe cosa scegliere. Renato Cifarelli, in realtà il punto non è quello, cioè non è, o meglio, è il tax rate, ma non è solamente il tax rate, è quello che ci diceva Giampaolo, è quello che ci ha raccontato prima lei. Ma sul discorso delle tasse, una cosa che io ho notato è che si stanno spostando, allora, situazione purtroppo, come hanno detto molti anche dei colleghi che abbiamo sentito, è molto brutta. La nostra è un'azienda che esporta, quindi noi per fortuna ci stiamo salvando, però è un po' quella situazione in cui uno si guarda attorno e vede macerie, quindi non è che sia tranquillissimo. Però ho notato che il metodo l'hanno trovato. Hanno spostato semplicemente dalle tasse sui redditi, quindi dalla tassazione sul reddito a tasse fisse. Mi sono fatto fare ieri, quando ci eravamo messi d'accordo per questa chiamata, una cosa dal mio ufficio amministrativo, e mi hanno detto: allora, l'IMU, che la nostra azienda, un'azienda di 60 persone, pagherà quest'anno, è di 18.000 euro. La TARSU, che pagherà quest'anno la nostra azienda, passa da 16.500 euro a 22.000 euro. Cioè la nostra azienda, per stare aperta... E fatturate quanto? Noi fatturiamo un po' più di 10 milioni quest'anno, dovremmo arrivare a 11. La nostra azienda, per stare aperta, paga 40.000 euro. Non solo, ma è tutto stimato, perché le aliquote non esistono. Cioè io non riesco a fare un budget fiscale, che per un'azienda piccola come la mia può anche essere accettabile. Ma lei immagini a spiegare al presidente di una multinazionale americana, il direttore finanziario italiano, che gli dice: guarda, io il budget fiscale non lo so fare perché le aliquote usciranno a dicembre. Oltretutto, naturalmente, in un'azienda come la nostra, lei tenga conto, noi paghiamo 22.000 euro di TARSU, i rifiuti che produciamo, essendo un'azienda che per fortuna non ha particolari problemi di rifiuti, sono i bicchierini del caffè, cioè questo che è quello che noi buttiamo, perché poi il cartone viene riciclato, eccetera, eccetera, e poi spendiamo per i rifiuti speciali, perché non dimentichiamoci che le aziende dei rifiuti speciali non è che li buttano nel cassonetto, li devono smaltire. Certo. Abbiamo speso al 30 di giugno 7.000 euro di smaltimento. Altra botta. Quindi, allora, si fermi un attimo qua, perché abbiamo recuperato Buzzetti. Io intanto saluto Giacomo Pisano del Movimento 5 Stelle, che abbiamo recuperato. Girolamo Pisano. Girolamo Pisano, che chiedo scusa. Lei è l'autore dell'emendamento sul DURT? Diciamo che in realtà si fermi, adesso la faccio parlare, però io prima, dato che abbiamo recuperato Buzzetti, non so quanto regge la linea, Paolo Buzzetti, presidente dell'ANCE. Allora, ieri mi è arrivata questa mail da un ascoltatore che io trovo stupenda, però me la dovete appoggiare, Buzzetti. Allora, ci scrive Giovanni: visti tutti i documenti che bisogna fornire a questo punto, per cercare di riequilibrare un minimo il rapporto tra Stato e cittadini e imprese, istituiamo il DURPAF, il documento unico regolarità pagamento fornitori, che le pubbliche amministrazioni devono necessariamente avere. Per gli enti che non sono in grado di esibirlo viene pagato solo il 30% degli emolumenti ai politici e ai dirigenti. Le piace? Beh, certo, è una bella provocazione, Io ho ascoltato con attenzione quello che hanno detto i colleghi, sono tutte cose giustissime. Guardi, non parliamo poi della vicenda dell'IMU su ciò che non si è venduto, che è l'unico prodotto al mondo, quello edile, che viene tassato prima di essere immesso sul mercato, ma poi l'IMU ha completamente sconsigliato l'affitto, perché sono aumentati l'onere dell'800%, in un appartamento da 208 euro siamo passati a 1028, cioè in realtà è una tassazione folle che aumenta sempre di più, aumentano le carte burocratiche e quindi si rende un ambiente impossibile all'attività d'impresa. Non è vero che siamo un paese finito, però bisogna cambiare bruscamente rotta e indirizzo, bisogna avere il coraggio e la capacità di avere una svolta epocale, perché il momento lo richiede. Quindi veramente la proposta che si deve fare è quella, su queste cose, di una totale sburocratizzazione, altrimenti l'imprenditore veramente va in una condizione di depressione e non sa più come affrontare le cose. Certo. Questa del DURT, voglio far capire come noi abbiamo avuto un numero di telefonate, non sapevamo più che dire, perché ha creato un'esasperazione nelle piccole imprese, perché veramente come si fa a concepire dopo 5 anni di crisi di ricomplicare burocraticamente, non stiamo ancora parlando che abbiamo la tassazione più alta al mondo sull'attività imprenditoriale, non stiamo dicendo questo, non stiamo dicendo che le tasse non vanno pagate, ma non si può caricare di oneri burocratici in questo modo, perché è logico che a un certo punto c'è una reazione. Voglio dire, se posso fare un paragone paradossale, a un certo punto la Gran Bretagna mise la tassa sul tè ed è nata la rivoluzione degli Stati Uniti. Cioè bisogna capire in che momento si vive. Guardi, abbiamo qualche imprenditore che ci ha detto facciamo la rivolta fiscale, Buzzetti. Lo so, ma sono cose che poi capiteranno se non c'è la capacità di capire che si è arrivati a un punto limite. Se si vuole mantenere in piedi il sistema industriale bisogna capire che questo tipo di cose devono finire. Bisogna cambiare rotta. Allora, una precisazione, adesso veniamo a Girolamo Pisano, una precisazione. Mi fa notare giustamente su Twitter Alfredo Ferrante, la telefonata a 9 in punto, che io non ho corretto, la telefonata di poco fa, l'ascoltatore, l'imprenditore che dice che la burocrazia è peggio della mafia e della camorra, fa più morti, naturalmente era un paradosso da esasperazione che non è giustificabile in alcun modo in questi termini, poi era naturalmente uno sfogo e come tale lo abbiamo preso e non mi sono sentito di correggere, insomma, l'onda dell'emozione, se vogliamo. Allora, Girolamo Pisano, l'autore, allora, ha sentito Buzzetti, sì, sul DURT. Sì, interessante anche l'intervento precedente a quello del presidente dell'ANCE riguardo all'IMU, la TARSU. Visto che mi sono in commissione finanze, ci terrei a dire qualcosa anche su questo. Dobbiamo sottolineare che in realtà la tassazione sugli immobili è tra le più basse d'Europa in Italia. Pisano, la voglio, sì. Mi scusi però, mi resti sulla palla, è lei l'autore del DURT? Sì, io sono l'autore dell'emendamento, che però è stato condiviso dalla mia commissione, non intendo quella ovviamente alla Camera, ma dal gruppo del Movimento 5 Stelle, poi è stato ampiamente discusso con il governo per ottenere il parere favorevole sia dei relatori che del governo, quindi in realtà non è una idea solitaria. Il discorso è che in realtà è stato frainteso, nel senso che gli adempimenti burocratici a cui faceva riferimento il presidente dell'ANCE non cambiano se c'è questa modalità di certificazione della regolarità tributaria. Quello che cambia, che non è stato percepito, è che mentre oggi il committente è costretto a diventare polizia amministrativa, polizia tributaria, cercando in qualche maniera le prove della regolarità tributaria del proprio fornitore prima di pagarlo, altrimenti diventa solidale, oltre che nel caso in cui lo pagasse passibile di una sanzione dai 5.000 ai 200.000 euro, domani questo sistema, una volta che sarà entrato in funzione, costringerà lo Stato a riprendere in carico questo controllo, perché ovviamente sarà lo Stato a dare questo certificato. Quindi il committente dovrà soltanto, su un portale online, scaricarsi o comunque in qualche modo ottenere elettronicamente questo certificato, e a quel punto può pagare mallevandosi da qualsiasi solidarietà. Vabbè Pisano, però in un momento di crisi drammatica, con l'edilizia in particolare, ma anche altre aziende che escono da un periodo devastante, l'edilizia in particolare, perché sappiamo quanto l'edilizia è stata punita da questa crisi, prevedere una cosa di questo genere, insomma, il futuro è il futuro. Intanto c'è una fase di transizione che piove in un momento di crisi, in una coda lunga della crisi devastante. Se mi permette, la fase di transizione non cambia assolutamente nulla, perché nell'emendamento c'è proprio indicato che nel frattempo che l'Agenzia delle Entrate non emetterà il regolamento attuativo di questo sistema, non cambia nulla, cioè rimane esattamente come adesso, ad esclusione della solidarietà sulla parte IVA, che è stata esclusa con volontà del governo, già era esclusa nell'originale formulazione dell'articolo 50 del DL Fare. Quindi in realtà nel transitorio non cambia nulla, l'asseverazione avrà esattamente lo stesso valore di prima, quindi sì, non c'è nessun impatto transitorio. A regime non c'è nessun aggravio, perché le comunicazioni che servono all'Agenzia delle Entrate per ottemperare questo nuovo strumento che deve mettere direttamente lei sono le stesse che vigono alla data di oggi, quindi non c'è nessun nuovo adempimento burocratico. Buzzetti, che dice lei? Io dico innanzitutto non c'è nulla di personale con Pisano, tra l'altro la maggioranza, cioè hanno approvato anche in commissione alla Camera tutti quanti, quindi il discorso non è mai personale. Dico che non è vero due cose: la tassazione sulla casa è assolutamente la più alta in Europa, sono pronto a dimostrarlo, al pari della Gran Bretagna è arrivata con l'IMU, perché abbiamo nove tasse diciamo, fino all'imposta di registro, che gravano sulle compravendite e sulla casa, quindi non è così. Il gettito è salito infatti a 24 miliardi da meno di 12 che era prima, da circa 10 che era prima, quindi in realtà non è vero che la tassazione è la più bassa, diciamo le cose come stanno. Okay, il DURC invece? Questo fatto, ecco, ma non è così, perché viene introdotto, prima di tutto siamo d'accordo che ogni ulteriore pezzo di carta da certificare da parte dell'impresa in compiti non suoi, non so, pensiamo a una piccola impresa, mi devo mettere a verificare non solo i pagamenti dei dipendenti delle aziende con cui entro in contatto, ma non vengo pagato se per caso una di queste aziende ha un contenzioso o ha una multa, quindi non è la stessa cosa, è assolutamente un grave peggioramento, perché tra l'altro se avrò ragione su quel contenzioso intanto ti sei perso il lavoro, quindi è una cosa, non è vero che è la stessa cosa. Certo. E infine io dico, siamo arrivati a un livello di al di là della tassazione, al di là delle procedure, sono compiti questi di responsabilità solidale che ci siamo inventati in Italia, cioè che l'imprenditore, pensiamo alla piccola impresa, deve essere responsabile di tutto quello che accade nel mondo con cui entra in contatto, ma questo lo facesse lo Stato, i controlli giustissimi li deve fare lo Stato, non lo deve fare l'imprenditore, sono lavori che non ci appartengono. L'esasperazione deriva dal fatto che sono 5 anni di crisi e continuiamo ad aumentare complicazioni burocratiche, non è più, non si regge più, io non so più come dirlo, bisogna capire questo, se entriamo in questa logica cerchiamo di non modificare le cose, di togliere gli adempimenti che non ci competono e di far lavorare le imprese che resistono miracolosamente, quelli che hanno parlato fino adesso sono complimenti, perché resistere in questa situazione sta diventando impossibile. 9 in punto. Il multitasking Renato Cifarelli intanto mi scrive su Twitter, è ancora al telefono con noi, però mi scrive su Twitter senza poi dimenticare che l'IMU è indeducibile, quindi ci si paga il 30% di tasse se fai gli utili. Gianluca da Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi dato l'opportunità di poter parlare. Prego. Di una cosa molto attuale di adesso, la sigaretta elettronica, che come ben sapete adesso lo Stato pensa bene di tassarci. Lei di mestiere vende sigarette elettroniche? Sì, sono rivenditore all'ingrosso al dettaglio. Da un anno e mezzo che svolgo questa attività e noi come il nostro comparto, che da un indotto di circa 10.000 persone che ci lavorano all'interno, saremo costretti, visto la nuova legge, di una passione del 58,5% e soprattutto il monopolio, che lo Stato vuole mettere tutto questo a monopolio, dicendo che succede nel tabacco, quando invece sono usciti degli studi da Veronesi, dalla LIAF, fatti da autorevole persone che dicono che questo non esiste. Purtroppo, se la legge passa così com'è, saremo costretti a chiudere e lasciare dei buchi, perché molti che hanno investito i soldi non sono ancora rientrati. Grazie Gianluca, sentiamo anche Cosimo da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno Spezia. Prego. Buongiorno a tutti gli ospiti. Io ho fatto il consulente per 5 anni, e versando regolarmente i contributi e tutto, mi sono trovato in una situazione paradossale, cioè pagavo circa il 65% tra tasse e contributi e ovviamente non potevo sostenere la cosa. Lei dirà, le rimane il 35%? Non è vero, perché facendo il consulente tutti quelli che mi ascoltano sanno perfettamente che buona parte delle spese che sostieni non le puoi detrarre. Quindi alla fine mi ritrovavo, dopo aver fatturato 100.000 euro, uno stipendio mensile di circa 1.800 euro. Questo cosa significa? Significa che non lo puoi sostenere certo. e quindi chiudi. Certo. Paradosso finale, le dico gli ultimi due paradossi. Dopo aver versato circa 100.000 euro di contributi, l'INPS mi chiede circa il 30% per il congiungimento con la tassazione ordinaria, con la contribuzione ordinaria, chiedo scusa, ma la cosa assurda è che mi sono ridovuto comprare i cespiti che avevo comprato nel periodo al prezzo originario. Quindi... Gesù, grazie anche a lei Cosimo. Allora, voglio recuperare Pisano del Movimento 5 Stelle. C'è una domanda che ci arriva da un ascoltatore che è un imprenditore, mi arriva via Twitter. E dice, ma perché diamine devo mettere il naso io nelle faccende fiscali tra Stato e fornitore? Dov'è la responsabilità personale? A me questo ragionamento convince abbastanza. Le aggiungo un'altra cosa. Oggi il Corriere della Sera, Dario Di Vico, scrive di 21 obblighi in più per i piccoli con il DURT. Allora, lei capisce che magari l'intento era buono, però insomma potrà ammettere che la cosa non è che è stata costruita no, in una maniera ideale. Allora, innanzitutto partiamo dal fatto che la responsabilità solidale è stata introdotta non dal Movimento 5 Stelle o da me, ma era già presente nella legislazione precedente e il governo non aveva... Allora diciamo che l'avete rafforzata. Diciamo no, mi faccia finire, non aveva il governo alcuna intenzione di eliminarla, quindi è chiaro che noi ci muoviamo con degli emendamenti e non possiamo riscrivere le leggi, quindi che sia chiaro questo. Seconda cosa, tutto quello che è stato detto dal Presidente dell'ANCE, anche io sul quale non ho alcun problema personale ovviamente, va incontro a quello che stavo dicendo prima, ossia nell'emendamento si cerca in qualche maniera finalmente di invertire questa tendenza per la quale lo Stato cerca di oberare le aziende, di controllare anche, come diceva anche questo ascoltatore, di controllare gli adempimenti fiscali degli altri. E infatti è la prima volta, insieme ovviamente al DURC, dove lo stesso la comunicazione digitale consente alla pubblica amministrazione di emettere certificazioni di regolarità, è la prima volta che anche sull'aspetto fiscale, attraverso questo sistema, l'Agenzia delle Entrate riesce a dare una certificazione direttamente, quindi liberando le aziende da fare questa operazione di controllo. Quindi è esattamente la stessa la direzione. Ora, sul discorso della solidarietà, il meccanismo può anche non piacere, sicuramente non è una cosa estremamente accettabile, però c'è un problema in Italia, ci sono 140 miliardi di evasione fiscale, quindi lo Stato, in generale i governi anche precedentemente, hanno cercato di introdurre dei meccanismi di contrasto di interesse che consentissero in qualche maniera di contrastare appunto l'evasione, e questo è lo scopo della solidarietà sugli appalti. Ovviamente è una piccola parte del problema ed è ovviamente un'operazione che è stata risolta sull'IVA adesso con l'articolo 51 di L69 che è stata eliminata, rimane sulle retenute a conto. Io vi racconto il motivo per cui questa cosa è rimasta in piedi. Sì. È rimasta in piedi perché negli appalti di servizio esiste un problema molto grave, e cioè il fatto che ci sono delle imprese che vincono gli appalti, anche tra privati, fanno il lavoro che magari dura 1 o 2 anni, dopodiché chiudono, non versando i contributi allo Stato, queste imprese ovviamente non sono più perseguibili perché scompaiono, e poi nella successiva gara vince un'altra impresa, riassorbe i lavoratori che erano stati in qualche maniera licenziati dall'impresa precedente e ritornano a lavorare, quindi c'è un problema che bisogna in qualche maniera contrastare. Sì. Sugli adempimenti dei piccoli, l'emendamento non entra nel dettaglio in maniera così particolare, dice lei, per cui bisogna vedere adesso come il governo e l'agenzia delle entrate vorranno regolamentare questa cosa. Ad esempio, nel caso di difficoltà finanziarie, è possibile pensare di emettere lo stesso la regolarità tributaria se magari mancano tre mensilità di versamento, faccio un'ipotesi. Oppure se è in corso il contenzioso, abbia pazienza. Allora, questa è un'altra cosa che devo dire, cosa importantissima. Il nostro sistema tributario, allora tengo presente che io sono un imprenditore, sì. Quindi fino all'altro ieri ero un imprenditore esattamente come le persone che stanno parlando. Tengo presente che... Mi raccomando, compatto, perché poi vorrei far rispondere Buzzetti, abbiamo ancora pochi minuti. Allora, mi spieghi questa cosa? Sì, lo so, però mi spieghi questa cosa. Il nostro sistema tributario è, diciamo, si basa sul principio di autodichiarazione. Ossia, noi dichiariamo con tutte appunto queste comunicazioni all'Agenzia delle Entrate qual è la nostra situazione reddituale e sulla base di questa paghiamo le tasse. Quindi tutti gli adempimenti di cui stiamo parlando e che servono alla fine di ottenere la regolarità tributaria sono quelli in forza di legge, non quelli in forza di provvedimento. Cioè, se io ho un contenzioso che si apre per il 2010, questo non mi toglie la possibilità di avere il DURT. Quindi non facciamo confusione, qui stiamo parlando dei versamenti su autodichiarazione periodici che ogni impresa fa da tantissimi anni e dei dati che oggi sono trasmessi per via digitale, quindi se c'è un contenzioso in corso il DURT sarà comunque regolare. Buzzetti, si sente tranquillizzato dalle parole di Pisano? Ma come dicevo prima, no, e ripeto, non è una questione 5 Stelle o altri partiti. È chiaro che non è una questione personale. No, sa perché non mi sento tranquillizzato? Perché il tema è questo, bisogna capire che in questo momento l'impresa non è pagata, lo sappiamo tutti, abbiamo fatto una battaglia sui pagamenti infinita, quindi non vieni pagato. Hai una tassazione tra le più alte d'Europa e una burocrazia che indubbiamente chiede adempimenti folli. È vero che c'è evasione fiscale, certamente, il DURC con i sindacati l'abbiamo inventato noi, cioè il documento unico di regolarità contributiva per evitare il lavoro in nero, quindi siamo consapevoli e responsabili. Quello che non si può fare in questo momento è gravare di un'antichetta in più di oneri e di costi il mondo delle imprese. Io poi non sono d'accordo che è così semplice come lo descrive l'onorevole Pisano, perché in realtà vai a fare la piattaforma elettronica, vai a far emettere un certificato, ma lo sappiamo in Italia quanto ci vuole ad avere un certificato. Adesso che cominciamo a sbloccare il principio che si deve pagare per il lavoro fatto, che mi sembra una cosa non da poco, altro principio fondamentale, andiamo a fare che cosa? Andiamo a ricomplicare la vita, poi con i committenti privati, rendendo molto discutibile la questione. Non è affatto messo così chiaro il provvedimento. Per noi questo provvedimento va completamente tolto. Se si vuole semplificare, si riragioni con calma e non ci si inventi improvvisamente dentro l'ennesimo decreto di infilare una norma così correttiva di una materia così complicata. Se vogliamo semplificare, noi siamo d'accordissimo, sul principio sono più che d'accordo. Infine, bisogna che su questo facciamo un passaggio per modernizzarci. Le imprese devono lavorare in qualità, devono essere corrette, devono essere pagate, ma lo Stato non può demandare i suoi compiti, l'amministrazione pubblica, caricarli sul privato. Il privato che è il ragionamento, che si faceva dall'inizio. Esatto. Chiarissimo. Questo non è più tollerabile, non siamo più in grado di sopportare un'antichetta di onere in più. Chiarissimo Buzzetti, voglio chiudere, se riesce a stare in un minuto, con Corrado dalla provincia di Chieti, buongiorno. Sì, Corrado Beldì, la Terlite, noi produciamo argille spalza, Leca nel mercato dell'edilizia, un saluto a Buzzetti. Abbiamo uno stabilimento a Lentella che rischia di essere chiuso perché dopo 8 anni ci manca l'autorizzazione per allargare la cava. Un processo burocratico lentissimo, stamattina c'è il comitato via, speriamo che ci sia data questa autorizzazione, ma siamo in una situazione kafkiana. 8 anni, 45 dipendenti, 20 esterni, 1.500.000 euro di investimenti annui negli ultimi 5 anni, un'azienda che va bene, che crea innovazione, che sta facendo con i suoi primi scelati una stanza negli Uffizi in questo momento con le sovrintendenze, eppure ci manca un pezzo di carta. Naturalmente ci sono 1000 problematiche, mille rivoli, però 8 anni sono veramente un'attesa una quantità di tempo intollerabile. Grazie Corrado, così chiudiamo la trasmissione in bellezza. Ringrazio Renato Cifarelli, Girolamo Pisano, Paolo Buzzetti per essere stato con noi, chiedo scusa a Roberto da Roma, Franco da Verona e tutti gli altri che non sono riuscito a far intervenire. Un ringraziamento come sempre ad Alessandro Marco Tulli in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Ricordati! Mancano 67 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.